Zolt. Fulminati in azienda. Guarda Marta, sono davvero stravolta. Ma perché mai, mia cara? Ma non credevo che fare innovazione in azienda fosse così faticoso. E ci credo che è faticoso. Te sei inventata sta storia dei tubonani che ci lavoriamo da mesi e ancora non si capisce che sono, a che servono. E intanto sono nanotubi. Poi se mi dai un po' di tempo ti spiego, guarda, è semplicissimo. No cara, ti prego, fermati. Il nanotubo è così poco cool. Ecco, fermate. Perché hai pure messo in piedi un programma per l'innovazione che ha fatto incazzare sul pezzo e ci ha costretto a lavorare come operai. Ma come mi dispiace, cara, vi sono davvero vicini. Eppure te, Font, non capisco perché sei stata dispensata dal lavoro de fabbrica. Ma caro, ma c'è da organizzare la cena aziendale di sabato. Chi altro avrebbe potuto farlo? Ma volendo avrei potuto occuparmene io, perché... Sì, a schedula, rapida come sei, ma a maggio potevi organizzarcelo nei capodanno. Oh, ma che sta a succedere? Non lo so, dottor. Fuori, fuori, correte, un disastro! Ma se può sapere che succede? Il laboratorio dove stavano sperimentando i nanotubi, c'è stata una perdita, stanno evacuando l'edificio. Evacuando, poi che brutto tempo. E ci credo che è un disastro, tutto quello che ha pagato sul pezzo per sti tubonani, a grande innovazione del secolo, ora si scopre che perdono. Ma perdono cosa, poi? E soprattutto qualcuno me può dire che cavolo so sti tubonani? Ma guarda, ma il disastro vero è che ho lasciato in stanza i bozzetti per gli inviti della cena aziendale di sabato. Si contamineranno? Mi non volevo dir, ma avevo detto che i nanotubi poteva creare problemi, danni alla salute, se un progetto troppo sperimentale. Ecco Paco, tu che ci capisci qualcosa di sti nanocosi, va a vedere che succede di preciso. Ma come? Stanno evacuando tutti? Ma non è pericoloso? Calmate Marca, calmate che adesso Paco va a vedere che succede. E riprende pure i bozzetti. Ma certo, i bozzetti. Allora vai. Ecco Paco, vai. Un progetto da milioni di euro è andato in fumo. Dai, questo qui su nanotubi, c'ho l'intera azienda chiusa per una settimana. Devo bonificare gli ambienti. E vuol dire paralisi, altri milioni andati in fumo. Non parlare poi della scena aziendale annullata. Per piacere, Fon, dai, non ti ci mettere pure tu adesso. È come se non bastasse, abbiamo metà della gente in quarantena, tra cui Paco, lo stagista, che non si capisce ancora come mai, mentre i vigili del fuoco evacuavano l'edificio, mi andava nella direzione opposta. Ma si può sapere perché Paco correva come un matto verso l'epicentro del disastro, e l'hanno trovato tutto bruciacchiato con una pila di inviti in mano. Ma Marco, sai com'è quello? È giovane, inesperto, non ha affiutato il pericolo, ci sei buttato a pesce. Gliel'avevamo detto di fermarsi. Appunto, ma quello niente, lo sanno tutti che non si scherza con i nanocosi. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T.